Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Massimo Danolfi e Martina Parenti, registi del documentario Guerra e Pace, al cinema da lunedì 24 maggio 2021. Ben trovati! Ciao, buona giornata. Come lo presentereste questo lavoro? Lo presentiamo con le parole che ci ha detto una persona che l'ha visto, che ha fatto molto piacere, è un film limpido e sorprendente. Spieghiamo a chi ci ascolta, è un documentario suddiviso in capitoli, giusto? Sì, è un documentario saggio. È un film saggio. Quattro capitoli sono il capitolo del passato remoto, del passato prossimo, del presente e del futuro. E il film cerca di mettere un po' insieme le idee su come il cinema in 120 anni ha rappresentato la guerra. Come era nato il progetto? Da una riflessione sulla diplomazia, sul valore della diplomazia oggi, su che senso aveva ancora la diplomazia nella contemporaneità, nel momento in cui la comunicazione è ovviamente iperaccelerata e chiaramente il dispaccio diplomatico, che per buona parte del Novecento era uno dei lavori fondamentali che l'ambasciatore svolgeva in terra straniera, e chiaramente con la televisione, la radio, la televisione prima e poi internet ovviamente ha perso un po' il suo senso. E allora da questa riflessione abbiamo iniziato a ragionare e abbiamo capito che inevitabilmente la diplomazia aveva a che fare con la guerra, da lì abbiamo capito che la guerra aveva a che fare con le immagini e da lì abbiamo capito che le immagini avevano per forza di cose a che fare con gli archivi e con la memoria. E quindi per un processo proprio di accumulo di riflessione si è delineato il viaggio del film. È stato soprattutto un grande lavoro di archivio. In quali direzioni vi siete mossi a questo proposito? Gli archivi più preziosi che abbiamo sono gli archivi dell'invasione italiana in Libia, sono gli archivi che la Cineteca Roma sta restaurando. Sono immagini importanti perché ufficialmente è la prima guerra filmata, nel senso che delle guerre precedenti rimangono poche immagini, sporadiche, insomma. Invece l'invasione italiana in Libia è proprio una guerra sistematicamente documentata per essere proiettata in tutta Europa. Nei cinema, no? Nei cinema. Okay. Queste immagini sono fatte da Comerio, da Biscalberini, da operatori della Pate importanti, tutti pionieri del cinema. Queste sono le immagini più preziose che ci sono. Poi c'è un salto mortale, volontariamente chiaramente, e da quelle si passa alle immagini del presente. Stavo riflettendo proprio mentre parlavamo, il punto di vista è quasi sempre quello all'offensiva. Le riprese sono quasi tutte di operatori dell'esercito che sta attaccando o si sta muovendo. Così un po' no, nel senso che lì proprio c'è un'evoluzione del linguaggio. Penso che nel caso appunto che ha citato prima Martina, appunto le immagini di Comerio in Libia, chiaramente sì, lì sono le immagini degli invasori, è una guerra d'oltremare, una colonizzazione fuori tempo massimo, perché non è una colonizzazione ottocentesca ma novecentesca, che però è filmata da Comerio, che ai tempi era un indipendente, non era un interno all'esercito, non esistevano ancora reparti interni degli eserciti di cinematografia, sarebbero nati qualche anno dopo. Però sì, chiaramente era un'immagine che in qualche modo aveva a che fare sicuramente con la propaganda, pure se non era fatto da un interno, però poi le cose cambiano, cioè tutte le immagini, per esempio, delle unità di crisi, quindi quelle del presente, che noi abbiamo chiamato passato prossimo in realtà nel nostro film, sono delle immagini spesso invece filmate dai telefonini, dagli smartphone, dalle persone che magari subiscono attentati, subiscono invasioni, come nel caso appunto dei curdi da parte dei turchi. Poi c'è l'archivio della Croce Rossa internazionale, quindi lì ci sono delle immagini di persone che si sono occupate dei crimini di guerra, di porre riparo ai crimini di guerra e al soccorso di guerra. Poi ci sono le immagini anche, come tu definivi, all'attacco, quelle appunto girate all'interno del PAD dai giovani militari francesi che si formano nella scuola di cinema interna. E quindi il film è anche proprio questo, cioè come nel corso di un secolo il modo di documentare la guerra è anche variato a secondo appunto sia della tecnologia ma anche dei mutamenti dettati dall'evoluzione della storia. Però le immagini nostre sono immagini di istituzioni di pace. Noi abbiamo filmato in spazio europeo, perché abbiamo filmato a Roma, a Parigi, a Losanna, sull'Adamello. Abbiamo più volte definito il nostro film una sorta di film impalcatura, cioè queste istituzioni di pace in qualche modo contengono la guerra. O nel caso della Farnesina sono delle finestre, diciamo, affacciate sul mondo, la guerra è un po' ovunque, dentro i monitor, e arriva da ogni parte del mondo, però comunque lì siamo un posto in pace, siamo in Italia, siamo a Roma, e la stessa cosa accade all'interno della Cineteca di Losanna, in qualche modo la stessa cosa accade anche a Parigi all'interno della scuola militare, cioè seguiamo la formazione dei militari, ma siamo in un territorio di pace, insomma. Il cinema contiene la guerra, ma contiene in qualche modo anche la pace, attraverso le nostre immagini. Maneggiare questi materiali, che impressioni e che riflessioni vi ha stimolato? La prima riflessione è che il cinema ha sempre avuto molto più a che fare con la guerra che con la pace, purtroppo, e che filmare la guerra è molto più conveniente che filmare la pace. L'altra riflessione è che nel corso di 100 anni si è molto formata un'estetica di guerra, grazie appunto a tutti i film, i fiction, i documentari, ma il valore della memoria va mantenuto alto. Questa è la domanda retorica che ci ha accompagnato per tutto il film, è stata: perché continuiamo ad archiviare immagini di guerra se poi non riusciamo a fare la pace, anzi aumentano le guerre? Però è una domanda retorica. Infatti nell'ultima parte del film il valore della memoria vola, ecco. Che tipo di distribuzione sarà? Il film è distribuito dall'Istituto Luce ed esce veramente in tantissime città, nel senso che il film è a Milano e poi sarà a Roma al Sacher, a Bologna, a Torino, a Cinemax, a Trieste, a Padova, a Venezia, a Pescara, Palermo, Nuoro, Sassari, Cagliari, Napoli, Padova, Mantova, Brescia. E effettivamente esce in moltissime città con Martina, faremo in questo caso un po' le rockstar, perché faremo un tour di accompagnamento, perché in questa formula tentiamo di sostenere il film facendo delle presentazioni di dove è possibile, perché il film è sostenuto anche da Emergency, che è diventato il partner del film inconcluso sostanzialmente, proprio per accompagnare la distribuzione, e quindi nelle città dove Emergency è presente ci sarà, al di fuori del cinema, un banchetto di Emergency per sostenere il grande lavoro che loro fanno e in qualche modo per sostenere anche il film. E visti i tempi siamo contenti. Un'altra riflessione che mi veniva proprio di seguito all'altra, sempre parlando con voi, è che in scenari di guerra la testimonianza è diventata sempre più scomoda e quindi si tende a colpire i reporter. Il valore della testimonianza, le cose sono complicate, nel senso che nell'evoluzione del linguaggio, del modo di usare le immagini di guerra, forse il grande scossone c'è stato con la guerra civile spagnola, dove per la prima volta venivano filmati morti civili come sorta di invocazione, di messaggio di aiuto al mondo, no? Venite, accorrete, qui sta succedendo un massacro. Chiaramente al giorno d'oggi, con la moltiplicazione del punto di vista, con la moltiplicazione delle immagini, purtroppo il potere ha sempre delle strategie per anestetizzare. Quella che hai detto tu, quindi l'uccisione dei reporter, è soltanto una. Ci sono anche altri modi, che è quello appunto di creare confusione, quindi lì dove c'è confusione, lì dove non c'è chiarezza, lì dove le immagini si moltiplicano, paradossalmente, un po' perché ci si assuefa a tutto, un po' perché le immagini vanno lette, le immagini da sole non sempre, quasi mai, riescono ad avere un senso, un significato. Le immagini vanno lette, vanno contestualizzate, vanno interpretate. Il nostro film in qualche modo dice e tenta di fare questo, cioè lo dice uno studioso all'inizio del nostro film: le immagini da sole sono cieche, poi ci sono delle immagini più forti, però sono anche ingannevoli, insomma. Le immagini richiedono un lavoro di osservazione, di studio, di interpretazione, non bastano da sole, non sono sufficienti, e quindi il modo di controllare, di manipolare è continuo, ci vuole impegno per districarsi, ci vuole impegno per capire le cose, e non basta uno sguardo superficiale, insomma, è quello che abbiamo capito e quello che sosteniamo, insomma. Il documentario Guerra e Pace al cinema da lunedì 24 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento ai registi Massimo Danolfi e Martina Parenti. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille. Grazie mille, alla prossima. Alla prossima. regista Antonio Capuano per presentare il suo film Il buco in testa al cinema da giovedì 20 maggio 2021. Ben trovato. Ciao, bentrovati voi, bentrovati e viva la primavera e l'estate che verrà. Antonio, come lo racconteresti in breve a chi ci sta ascoltando? In breve è la storia di una ragazza nata orfana dopo che le avevano ammazzato il padre, 2 mesi prima. Quindi lei vedeva foto di suo padre dappertutto, perché poi la mamma è quasi uscita di testa, no? E quindi metteva le sue foto, era un bel ragazzo lui, non gli mancava molto, per cui la bambina da piccola cominciava a vedere queste foto in giro, ovunque le metteva la mamma. Cominciato a chiedere e ha saputo, e da lì ha cominciato a covare un amore infinito, struggente, proprio un amore, innamorato di questo ragazzo, e contemporaneamente un odio perché gliel'avevo portato via. E lei non è che vive bene, è squilibrata, non trova pace, finché un giorno, lei ha quasi 40 anni, la psicologa che l'aveva perduta dice: guarda, ma va a incontrare questa persona a Milano, il quale sì, ha anche scontato tutta la pena, e cerchiamo di organizzare un incontro con lui. E lei si è convinta, ma dopo tante insistenze della psicologa, è andata da lui e lei non se lo aspettava, lei è andata anche con desideri, diciamo, una ragazza, ma insomma, desideri di mangiarselo, di ammazzarlo, no? Invece ha trovato un uomo sconfitto, perso, e lei si è molto addolcita, non solo, ma sembra, questo me lo diceva lei, Antonia, dai, non parlare più di questa storia mia, io ho trovato un bravo ragazzo che forse mi sposa, per favore dimentichiamoci il passato, questa è la storia. Com'è nata quest'idea del film? Ma perché ho sentito lei, faceva un'intervista. Perché questa cosa poi ce n'è parlato molto all'epoca, no? È andato nel 2007 a Milano a vedere lui, e chiaramente c'era molta attenzione da parte della stampa, era un caso, sai, sono ancora tantissime le vittime degli anni cosiddetti di piombo, tantissime, tantissime. L'hanno intervistata e lei raccontava che questo incontro l'aveva illuminata quasi, insomma, praticamente l'aveva fatto tutta la pace. E questo mi sembrava bellissimo, no? Mi sembrava bellissimo, sembrava da raccontare, ecco. E quindi ho cominciato a covare l'idea di fare un film. Finalmente poi l'ho fatto, con una gran fatica, perché per me non è semplice fare film, ma quello è. Quindi devi fare una cazzo di fatica, come se avessi delle palle al piede. Ogni mio film mi devo tirare indietro ste palle, come dice. Vabbè, primo film ok, ma ne fa già tanti, ho incassato sempre male, quello è stato. E quindi mi guardano con sospetto, no? Anche perché io sono un po' fuori, no? Mi piace in maniera libero, fuori dagli schemi, quindi questo fa un po' timore, io penso, ma questo è un pensiero mio, Io non sono legato a nessun car, a nessuna carrozzella, politica, niente. Faccio dei film e li lascio. Li lascio perché spero che poi la gente li veda, perché lo sai, a questo punto comincia l'interesse del produttore che dice: ok, mi ha fatto un film, però cacchio, vorrei pure incassare qualcosa, giustamente. Che approccio hai voluto a questo racconto? Ma guarda, io scrivo una sceneggiatura che in genere mi soddisfaceva abbastanza, perché il problema era raccontare lei con il cuore del film, che doveva essere l'incontro a Milano con quest'uomo. Quindi il film parte con l'arrivo suo a Milano e finisce con lei che va via da Milano in treno, chiaramente. Il film è continuamente interrotto da brani della vita di Maria oggi, come è, come è stata. E poi torna a Milano all'incontro doloroso, ma il cuore del film è l'incontro con quell'uomo, con quella persona. Che pensiero ti sei fatto su quelle vicende? Quelle vicende le ho vissute, eravamo ragazzi che credevamo di cambiare il mondo, io non lo so, sempre tenuto lontanissimo dalla violenza, lontanissimo perché non è proprio la mia condizione, non ci riuscirei. E noi credevamo che quel mondo in cui vivevamo fosse proprio una cavità, devo dire. E quindi volevamo cambiarlo, erano degli idealisti, Infatti c'è una cosa che richiama lei nel film, racconta della mamma nel processo che hanno fatto a tutti loro, e tutti loro erano chiusi in una gabbia, e se tu andassi a rivedere, a ripescare quelle foto, erano dei ragazzini così teneri. E infatti la mamma dice: ho visto quei ragazzini in carcere al processo, mi faceva una tenerezza. Questo ricordo della mamma con la ferita ancora sanguinante della morte del padre. È stato gente che ha creduto di poter cambiare, però con dei sistemi terribili. Con la violenza poi hanno capito, abbiamo capito tutti, ma insomma che non è con la violenza, che non è con ammazzando la gente che poi migliorare il mondo, no. Che uscita sarà? In quante copie? Ah, non lo so, sai, non l'ho chiesto perché poi io sono un po' così. Il film l'ho fatto, mi fa piacere che esce nelle sale, quindi io vado continuamente ad accompagnare laddove mi chiamano, ci voglio essere, ci farei, per chiacchierare con la gente, perché tra l'altro mi piace parlare con la gente a cui io dedico il mio racconto. Il mio racconto è per voi, io ormai l'ho fatto, lo offro. Sai, quando chiamo una barzelletta ed è bella, la vuoi raccontare, e tu la racconti continuamente. Perché ti va di raccontarla, ti va di, no? Che a questa allegria, parlo della barzelletta, partecipano tutti. È la comunicazione di cui tutti quanti noi abbiamo bisogno, gli uomini. La prima cosa è la comunicazione, comunicare. Che poi sei un giornalista, insomma, figurati. Il film Il buco in testa, al cinema da giovedì 20 maggio 2021, un saluto e un ringraziamento al regista Antonio Capuano. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie a tutti, creati su cazzo di lupo. Ciao. Con Davide Meraviglia, regista del documentario Empty Man, l'arte di Federico Clapis oltre i social, in streaming dal 31 maggio 2021. Ben trovato! Ciao, grazie di avermi invitato. Ci parli di questo lavoro, ce lo presenti? Il mio film, che è prodotto da Alberto Lombardo per Lamp Light and Motion Pictures e scritto da Marco Ferrarini, racconta la storia recente di Federico Clapis, che era un personaggio comico dirompente sui social tra il 2011 e il 2015, con dei contenuti virali appunto molto, molto comici, anche irriverenti, e diciamo all'apice del suo successo stupisce tutti nel 2015, lasciando tutto di punto in bianco, fa questo annuncio, dichiara che in realtà quella non era la vita che voleva e gli va stretta, in realtà lui vuole essere preso sul serio come artista, quindi scultura, pittura, le gallerie, i musei, quel tipo di mondo lì è quello con cui lui vuole veramente esprimersi. E il film racconta questa sua nuova sfida con tutte le difficoltà del caso, del farsi prendere sul serio dato il suo passato, e in un mondo dove in realtà di tutta la popolarità che aveva prima non gliene importa assolutamente nulla, e questa è anche occasione per far vedere per la prima volta la vita intima di Federico, che è un personaggio che ha anche degli angoli oscuri, delle fobie, dei problemi come tutti, e che lui non aveva mai voluto far vedere sui social perché non trattava mai la sua vita privata, invece con l'occasione di questo film possono essere visti da tutti e capire che in realtà è uno di noi, tra virgolette. Questo documentario diventa quindi anche un'indagine psicologica e anche sociologica. Si vedono immagini di repertorio di lui piccolino filmato dalla mamma, insomma scava anche nel suo passato, e si vede anche un po' l'ambiente prossimo ai social, anche l'ambiente artistico nello specifico della realtà milanese. Sì, diciamo che l'idea alla base di questo film è esattamente quella di fondere da un lato il mondo social e dall'altro il mondo dell'arte, raccontandolo tramite la figura di Federico, che per me è emblematica di questa nuova generazione che nasce con i social, perché appunto nel film si capisce come lui sia diventato popolare con i social, ma per esigenze personali, nel senso che ha avuto dei trascorsi per cui lui è in realtà molto a disagio con le persone fisicamente, e invece tramite i social lui in qualche modo riesce a comunicare con le persone in modo che li sente più genuino e vero, e la sua carriera poi è nata in quel modo lì, e tuttora lui utilizza i social nella sua attività di artista, tant'è vero che per lui l'opera si completa quando viene pubblicata, quando viene commentata, invita ognuno a dire che cosa ha suscitato in lui quest'opera, e per lui è così che si compie il percorso artistico, e si scontra magari invece con delle logiche un po' più obsolete, dove invece la statua viene messa nel museo, il dipinto viene messo nella galleria, poi finisce lì. Non tiene conto di questo aggiornamento, diciamo, del mondo degli ultimi anni. Come era nata l'idea del film? Io Federico, tramite il produttore Adalberto Lombardo, l'ho conosciuto già nel 2012 come persona, nel senso che non ci avevo lavorato. Me lo aveva presentato, è nata una stima, una simpatia reciproca, ogni tanto siamo andati avanti a sentirci negli anni, e però mi colpiva come lui già nel 2012 mi aveva mostrato le opere che faceva allora in casa sua e che appunto teneva in gran segreto e condivideva con pochissime persone, e mi aveva detto io non so ancora quanto andrò avanti con questa vita di personaggio comico, perché in realtà il mio sogno è questa cosa qua, e un giorno spero di poter annunciare la mia vera natura, tra virgolette. E mi aveva molto colpito. Poi in realtà io l'avevo un po' perso di vista, nel senso che appunto quando aveva fatto questa cosa nel 2015, io poi come artista lo seguivo, ma più che altro a distanza, come follower, tra virgolette, e un giorno nel 2019 ero su un set e tra la troupe, in qualche modo, non so perché, è stato nominato il personaggio, è nato un dibattito accesissimo, e in qualche modo questo fervore con cui c'era chi lo amava, chi lo odiava, chi non lo conosceva, però comunque tutti parlavano per sentito dire e non sapevano assolutamente nulla della persona dietro il personaggio. E poi è una storia veramente affascinante, nel senso che parliamo di una persona che aveva un grande successo e ha il coraggio di guardarsi negli occhi e dire in realtà per me questa cosa non ha importanza, io voglio fare tutt'altro, e lo molla e riparte da capo, che è una cosa che per me merita sempre una grande stima. E quindi poco dopo ho chiamato il produttore, ho detto senti, ma secondo te fare un film su Federico? E praticamente la cosa fatta, perché lui l'ha chiamato se non il giorno dopo quasi, ed eravamo dopo 3 settimane credo a fare le riprese. Che impressioni ne hai ricavato? Premettendo che io non sono una persona molto social, cioè non è che non ci abbia provato negli anni, ma proprio c'è una resistenza da parte della tecnologia nei miei confronti, quello che ho avuto modo di indagare con questo film, che poi è la parte bella del fare un film, nel senso che alcune cose finiscono nei 90 minuti, ma tutto il resto invece te lo porti dentro. È intanto che ho avuto l'occasione di conoscere la persona ancora di più, perché passandoci tantissimo tempo insieme, in qualsiasi tipo di momento, anche magari negli sfoghi, nelle frustrazioni che normalmente ti tieni e non condividi con degli estranei, l'ho potuto conoscere in modo più approfondito, e non avevo sinceramente mai colto quanto davvero lui credesse nel social come strumento personale di vita. Ho sempre pensato in qualche modo che lui, come tanti altri personaggi popolari in rete, utilizzasse principalmente il social come strumento di marketing per una carriera, e invece è esattamente il contrario. Lui lo usa a prescindere, tutto questo è nato dopo, tant'è vero che quando cercavo, magari intervistandolo per vedere se poteva essere utile nel film, di farmi spiegare come lui, diciamo, tecnicamente utilizzava il social network per ottenere dei risultati professionali, in realtà lui faceva fatica a spiegarmelo, le sue erano cose molto astratte, e lui mi diceva cose del tipo no, ma perché vedi, una story, quando proprio mi sento di farla, botto di più, quando invece la faccio perché mi costringo, è come se le persone lo capissero. Però era proprio un suo modo di essere, e inoltre io non avevo mai inteso quanto invece lui fosse in difficoltà con le persone, diciamo, fisicamente, perché io quando l'avevo conosciuto l'avevo sempre comunque visto in situazioni private, intime, non c'era la calca di gente, cioè sì, ogni tanto in quegli anni era praticamente impossibile camminare a Milano senza che venisse fermato di 50 metri, però sai, la foto, l'autografo, non c'era una vera interazione, ma non avevo mai inteso quanto invece lui fosse solitario e chiuso, diciamo, nel suo guscio. E sono entrambe esperienze che mi hanno fatto riflettere. Oltre allo streaming, avete pensato anche all'uscita in sala?